buongiorno Willy, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri di buon compleanno alla la grande, potenzialmente più forte tutti i tempi, 64 candeline per Ralph Sampson. Che bella palla a due per dare il via al nostro Move to Groove martedì 9 luglio, quindi il più grande potenzialmente giocatore del vero basket, hashtag cambiategli nome, questo è un po' il sottotitolo del Move to Groove, critica e filosofia cestistica. Ralph Sampson, 2,24 metri, l'agilità felina, la capacità tecnica, la visione di gioco, i fondamentali, gli skills, il talento, la forza, la presenza, l'intuizione, la velocità, essere presente come giocatore da primo o secondo rimorchio. Cosa vuol dire giocare da rimorchio? Che si va a fare il galletto con le ragazze e si rimorchia? No, probabilmente adesso vi risponderebbero questo. No, giocare da rimorchio, ne parleremo poi magari in un'altra circostanza a proposito di transizione o contropiede secondario, che termini che tiro fuori quando si tratta di tecnica cestistica, però insomma le cose sono ampiamente cambiate. Un buongiorno per questo imprevedibile martedì a tutte le amiche e gli amici sportivi e non sportivi. Andiamo a cominciare e parliamo di formazione. In che senso? Beh, intanto diamo uno sguardo al passato, poi arriviamo ai giorni nostri, poi ci accompagnerà la musica e poi al 333-1809-494 magari mi darete una mano. Indispensabile la presenza di Paolo Onofri, perché il riferimento al contemporaneo è al torneo preolimpico e non vorrei dire cose inesatte. Mi pare che l'Italia non sia nemmeno riuscita a qualificarsi per le Olimpiadi, da quel che ho capito. Vedremo se ho intuito bene, se ho avuto informazioni esatte. Comunque è veramente preoccupante tutto ciò ed è per quello che oggi ho voluto parlare di formazione. Poi sapete, facendo conversazione vengono poi le idee, rapportandosi con il passato. Andremo al momento in cui arriverà il primo straniero nelle formazioni, dagli Stati Uniti d'America tendenzialmente, ma non solo, diciamo un 75-80% se non di più dagli Stati Uniti d'America. All'inizio un americano, poi le società ebbero la possibilità di prendere due americani. Con che modalità? E perché tutto ciò va ad essere con attinenze concrete a un discorso di formazione per italiani e ovviamente per i più giovani? Beh, a tra poco, quindi dopo lo stacco musicale, avremo modo di approfondimento e allo stesso tempo anche di critica. James Taylor Quartet e Roy Ayers aprono la nostra playlist e poi tra poco si continuerà così a far diretta e conversazione su motivi di formazione al Mood Groove di oggi. A tra poco. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Get yourself down to the floor. Get up, get up. Do it till you feel some more. Get yourself down to the floor. Get up, get up. Do it. Get yourself down to the floor. Get up, get up. We'll be right back. l'Italia non ce l'ha fatta, eliminata al torneo preolimpico, qui bisogna rifondare tutto il contesto nazionale italiana pallacanestro, ma qua ne parleremo poi in altre sedi. Un proolimpico che porta alle Olimpiadi molto interessante, perché adesso quelli, i giocatori NBA, quelli buoni tra virgolette, sono dappertutto, ci sono praticamente dei 2-3-4 dream team a squadra oggi come oggi, dream team sempre tra virgolette. Ecco, hai fatto bene a precisare tra virgolette, perché questa globalizzazione che si è rivolta verso il basso, mio modesto parere, è qualcosa di negativo per tutto il movimento, e si vede tra l'altro, e per quello che ho deciso di parlare di formazione quest'oggi facendo un passo indietro. Voi direte: cosa c'entrano gli americani? All'inizio un americano per squadra, per società, poi poco dopo due americani per squadra e per società. Mi è capitato in diversi motivi di conversazione, vi posso assicurare che è una fatica. Quando non si è tifosi, quando si fa approfondimento, quando principalmente si guarda aspetto specifico di percorso, è una fatica essere a volte così oppositori della Vox Populi, e non solo nello sport, ma questo lo avrete intuito. Beh, ora stiamo parlando di basket, vero basket del Mult Group, quindi va da sé che ci concentriamo su questo aspetto molto particolare. Allora, arrivavano delle vere e proprie divinità che erano motivo di attenzione in ogni particolare, in ogni aspetto, a volte anche frivolo, a volte anche nei movimenti più di contorno, a volte non vi era uno scimmiottare, ma era un motivo vero e proprio di ispirazione per i più giovani, e non solo per i più giovani, ma per gli atleti, i cestisti che affiancavano queste figure mitologiche. Formazione intesa non come l'allenatore che ti insegna la partenza diretta e la partenza incrociata, non come fare tagliafuori, che è indispensabile, e ovviamente non sto sottovalutando niente. Sto immaginando la formazione per essere a fianco di grandi campioni. È una formazione che involontariamente è stata portata ai più giovani, e subito la critica è arrivata, immancabile la critica. Ma com'è possibile? Alcune squadre di A2 prendevano, e poi vi spiegherò con che modalità, americani fortissimi per riuscire ad ottenere la salvezza, arrivati in un campionato di massima serie, e quindi dopo gli atleti al loro fianco erano tendenzialmente dei comprimari. Come potevano avere quel ruolo da protagonisti, come potevano formarsi? Ecco, è sbagliatissimo questo modo di ragionare, anche perché vediamo in aspetto conseguenziale a quello che vi è invece adesso, che non c'è più questa modalità, e guardate un po', non riusciamo nemmeno a qualificarci in un torneo preolimpico. Quando c'era questa modalità qui, oh, guarda caso, abbiamo vinto degli europei. Il filosofo Raffaele Piana, detto Nino, mio nonno paterno, adesso io prima di dire questa affermazione faccio un po' di preambolo indispensabile se voglio portare queste parole in vernacolo felsineo, perché sono abbastanza pesanti, possono essere confuse con sessismo, con omofobia. No! No, no, nulla di tutto questo, anche perché la parola, per così dire, colpevole di essere tacciata di omofobia e di razzismo e tutto quello che può essere motivo giustamente di critica, in questo caso non ha quel senso offensivo verso appunto all'orientamento sessuale. Insomma, quindi preciso questo, prima che ci sia una levata di scudi, attenzione, il nonno mano piana, quando si giocava a carte, io da ragazzo appunto facevo spesso coppia col nonno, e quando il nonno aveva motivo di insegnarmi, di formarmi, diceva sempre: Mark Mancino, zuga coi bon e schiva i buson. Traduco prima che arrivino critiche. Allora, mi raccomando ragazzo mio, gioca coi buoni, gioca coi talentuosi, che tu sia in squadra con loro, che tu sia avversario, ma se c'è la possibilità gioca coi buoni ed evita i fortunati, gli improvvisatori, quelli che casualmente sono lì, che più che altro per fortuna portano avanti il loro percorso di agonismo e di contenuto, che sia una competizione di qualsiasi genere. Non c'è nulla di omofobo in tutto ciò, assolutamente, nonostante la parola possa essere confusa. Però l'intesa era quella. Mi raccomando, gioca sempre a fianco o sì avversario di atleti fortissimi, piuttosto che trovarti vicino a degli improvvisatori che vanno avanti solo a colpi di fortuna. Tratta dalla Freestyle Record, per avere appunto a proposito di formazione un'ispirazione al funk e al soul tradotti in maniera, se vogliamo, più contemporanea e anche più accattivante. Una label che secondo me a proposito di formazione dà le note giuste. Serve avere 4 o 5 Dream Team? Cosa serve a proposito di una crescita? Beh, era molto più importante avere delle figure che a volte, nonostante oltre oceano non fossero stati dei grandissimi campioni, molte volte, pensate il livello, arrivavano in Italia e insegnavano involontariamente. E questa la formazione o l'autoformazione, perché poi è spontaneo guardare come usciva dai blocchi Jeff Lamp per appassionati veramente dal palato fine e giovani giocatori, vedere i cambi di velocità di Otis Howard per riuscire a ricevere spalle a canestro, vedere i cambi di direzione di Larry Bright e studiarli in maniera dettagliata. Questo è motivo di autoformazione contemporaneamente per questi campioni, formazione, ed era un fondamentale. bello, una volta arrivavano gli stranieri, quelli buoni, buoni, buoni, che tiravano su le giovani leve italiane a diventare ancora molto più buoni di quello che erano. Io quest'anno ho avuto modo di seguire la Fortitudo in Serie A2 e il livello della Serie A2, neanche A, parlo di A2, di 30-40 anni fa non è minimamente paragonabile al livello di adesso. Siamo veramente 2-3 categorie indietro, se non addirittura neanche dediti al professionismo. Anche secondo me neanche meritori di essere definiti di livello professionistico. Sapete cosa mi porta ad avere motivo di riflessione? Ma questa potrebbe essere un'altra puntata, magari avrò anche Pietro Rossi per avere diverse voci, come è giusto che sia. Aspetto anche le vostre voci al 333-180-9494. Ecco, una particolarità è che dal punto di vista fisico e atletico tutti schiacciano, tutti sono dei fenomeni, tutti hanno delle prestazioni atleticamente parlando incredibili, ma non mi fermo qui. Anche per quanto riguarda l'aspetto di ball handling, di controllo della palla, sono eccezionali, sono bravissimi in questo, se vogliamo anche nella precisione balistica, e la modalità e come trasformano queste caratteristiche poi in concreto, che è allucinante. E qui si torna alla necessità di una formazione. Sono ovviamente tra questi aspetti mitologici chi ha più disponibilità, chi meno, ma questo è un aspetto caratteriale del singolo, ci mancherebbe, deve essere lo stesso giovane atleta ad avere visione e attenzione di questo particolare. Poi, come vi ho detto, c'è chi dava più disponibilità. Io pur, pensate, non essendo un suo ammiratore, per me una persona eccezionale era il buon John Douglas. John Douglas una volta si fermò per 2 o 3 minuti durante un esercizio di tiro per guardare il mio tiro, la mia esecuzione di tiro. Dopodiché mi chiamò e disse: "Ehi, perfetto, no, va benissimo, però se vuoi giocare in Serie A, se tu vuoi giocare, il tuo tiro deve essere come esecuzione assolutamente più veloce, più veloce, più veloce, più veloce". E già questo consiglio, insomma, non è male, aver motivo poi di concentrarsi nel formarsi dove appunto alcuni aspetti sono decisamente più deboli. A volte da soli non ce ne rendiamo conto, ma come? Io ho un gran bel tiro, sì, ok, ma non puoi portarlo con questa lentezza, perché dai tempo al difensore di recuperare, di uscire dal blocco, di portarti disturbo, buona difesa durante la tua esecuzione di tiro. Quindi, ok, gran bel tiro, lavora sulla velocità. Che ha affascina il giovane d'oggi? La super mega schiazzata atletica, il ball handling incredibile, ma devono capire che per giocare a basket, a pallacanestro, ci sono anche tanti altri aspetti molto più fondamentali di questi, ma che purtroppo non affascinano. Guarda un po' come tutto questo si riflette poi anche nel mondo della formazione, chiamiamola così, dell'apprendistato lavorativo, no? Dove bisogna essere pronti subito per mordi e fuggi per poi essere mandati a casa dopo pochi giorni di lavoro e essere nuovamente disponibili magari due settimane dopo. E per che cosa? Ah beh, le mansioni, le mansioni, vuoi sapere anche quelle e poi ti devo anche pagare. Formazione non è nel corso, in pausa pranzo, che chiaramente i corsi arrivano in pausa pranzo, no? Per i dipendenti, che è più una pubblicità che arriva dai fornitori piuttosto che una vera e propria formazione. La formazione arriva dall'osservazione, la formazione molte volte, per come la intendo io, non quello che ti dice il coach, la tua formazione arriva chiaramente dalla passione e poi arriva dall'osservazione, arriva sul campo, arriva alla critica, arriva alla condivisione, arriva con motivi di scambio per quanto riguarda le nozioni, la tecnica e, come ho detto e lo dirò sempre, tu, anche quando ero capo cantiere, tu ovviamente ogni giorno devi portare qualcosa che faccia in modo che la costruzione proceda, ma soprattutto oltre a questo tu guarda, mi raccomando, osserva attentamente quello che sta succedendo. Mondolino è cambiato, è un altro mondo, te lo sto dicendo anche da questi parallelismi con la società attuale. Buongiorno a te Lino, ci scrive: venerdì sono andato alla cerimonia di intitolazione del campetto della Lunetta a John Fultz, cerimonia con non tanta gente ma molto toccante. Ricordo che John Fultz, oltre al grande campione, io l'ho conosciuto in maniera fraterna, si può dire, certo genio e sregolatezza è stato, pensate paradossalmente, a proposito di formazione, e lui era un giocatore, ex giocatore, e che ex giocatore, se vogliamo, è stato il più grande allenatore che tecnicamente io abbia mai avuto, una vera cisterna, un vero enorme dizionario di tecnica cestistica. Comunque, cerimonia con non tanta gente ma toccante, almeno per me. Voglio fare polemica, però non c'era nessuno della Virtus, anche se la società era stata invitata, e per par condicio non c'era nessuno neanche della Fortitudo. Scusabile, ma insomma è bello onorare anche gli avversari, ma è come, anzi devi onorarli di più. Io la prima cosa, stasera stessa cosa successe due settimane fa per la cerimonia a Gigi Serafini. Che tristezza. Sì, cambiategli nome, è un'altra cosa. Non c'è voglia di dialogo, abbiamo paura magari che rubino il posto di lavoro in squadra, non c'è più quell'aspetto di condivisione che è anche piacevole da parte di chi lo porta in trasmissione e in comunicazione. Ecco, questi aspetti sono diventati secondari, tutto è su. risultato? Non si va neanche. No, non si va neanche. Non solo. No, non si fa una brutta figura, ok? Viene eliminata una brutta figura alle Olimpiadi. No, non si va neanche in là. Beh, com'è possibile? Quando c'erano due americani che erano un limite, alcuni dicevano, ma cosa imparano poi? Beh, che esperienza fanno in A2 i giovani vicino a questi due extraterrestri che prendono tutto lo spazio? No, non prendono tutto lo spazio, assolutamente. E guarda caso che all'epoca di cui io vi sto parlando si vincevano campionati europei. Qualcosa dovrebbe dare a riflettere. Progetto di questa formazione, il brano di disco music moderna, contemporanea, Dance Freak, dal South Bronx Community Youth Project, un progetto del Bronx, della parte sud del Bronx, curato da giovani artisti. Dance Freak ci accompagna alla pubblicità, poi si torna in diretta per il Move to Groove di oggi, martedì 9 luglio. A tra poco. My wish for you, sweet happy life, may all the days of the year that you live be laughing days. With all my heart, sweet happy life, and may the night times of all of the days be dancing nights. Stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. My wish for you, sweet happy life, may all your sorrows be gone and your heart begin to sing. And if a wish can make it be, I wish that you spend every day of your happy life with me. Questo brano portiamo anche un po' di note tra Easy Listening and Bossa Nova con la Happy Samba, Mark Murphy. ora con piccola divagazione, qua deve aiutarmi Paolo, sperando che sia in contatto con noi. Mi capita di vedere qualche frame, qualche clip nel torneo preolimpico di una formazione di cui subito la mia simpatia, tutto attenzione, no? Per quanto riguarda il regno dell'arcipelago del Bahrain. Il basket del Bahrain, beh, è una storia che si perde, no, perdonate l'ironia, non è così. Ma quello che più ha colpito la mia attenzione è il centro, il lungo, lo chiamiamo così. Insomma, è un ragazzo che sarà 1,94, decisamente infisicato, è ben inquartato. Insomma, questo ragazzo vedo che ha dei movimenti un po' strani per quanto riguarda la pallacanestro, almeno da me conosciuta. E a un certo punto taglio a mezzo area, riceve, giro e tiro portato un po' come può e non è che dici, oh che brutto tiro che ha, oh mamma mia che esecuzione, beh no. Allora questo non ha neanche preso la struttura. Non è che non ha preso il ferro, è arrivato corto, no, non ha preso la struttura. Ce ne vuole? Guardate che è più difficile secondo me che realizzare un canestro, non prendere tutta la struttura, cioè il tabellone, il sostegno, la base, no, non ha preso niente. La mascotte in NBA c'è Boban Marjanovic, al preolimpico c'è Ali Hassan, il pivot del Bahrain, 1,87 m, più largo che alto, anzi facciamo di necessità virtù, il convento passa questo, bisogna tenersi questo, eh. Volevo dire l'ennesima imperfezione citando nel nome, sì adesso ricordo, è Ali Hassan. Allora, non ha preso la struttura. Ovviamente sotto di 30 punti la sua squadra è in un altro frangente di gioco, riceve uno scarico a 4 metri da canestro in posizione di ala, tira, canestro. Sembrava il gol di Tardelli ai mondiali. A un certo punto, così, sono rimasto tra l'ilare e il faceto perché ha sorriso anche il suo allenatore, come per dire, ma pensa a te. Tempi, non è che non potesse giocare in C, in D, in promozione, no. Ai tempi non so se lo prendevano nella WISP. Ovviamente anche in questo caso non me ne vogliono gli amici per il paragone che sto facendo, anche perché lui era ma non neanche paragonabile, però visto che abbiamo citato vecchie glorie, guarda, se mi stai ascoltando Macio Forni, ti prego ovunque tu sia perdonami, anche perché tu sei Karim Abdul-Jabbar in confronto, perdonami, scusa, ma appena ho visto Ali Hassan ho detto, beh, chi è questo? È Macio del Bahrain. tanto per capire, solo ai campetti di qualche anno fa si sente che faceva più bella figura, sì, in sì, questo preolimpico. Sono i corsi che fanno la formazione. La formazione la fate voi, sia in caso di autoformazione e sia nel caso di trasmissione di talento e soprattutto, e magari ne parleremo anche in uno dei prossimi Move to Groove, nell'osservazione, nel guardare il particolare. Che stiamo ascoltando e che ci porterà alla conclusione, portato da Casper Ballum Quintet. Ogni volta che sentivo corso di formazione toccavo tutti gli amenicoli per gli scongiuri, oddio! A tutti i cestisti che hanno avuto e trasmesso questo, è dedicato a tutte le persone che in 12 anni di attività ho avuto la possibilità di formare. Grazie Paolo Onofre, un saluto a Pietro Rossi, ci sentiamo martedì prossimo, domani il Voltiamo Pagina Libri a Colazione, mi raccomando, per arricchire la vostra biblioteca, nome Radio Città Fujiko, ora spazio all'IDP enciclopedico, alla pubblicità, a seguire Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, domani alle ore 7, Super Mattiniere e Super Mattinieri, vi aspetto puntualissimi, con la prima colazione in diretta da Paolo Onofri e da William Piana. Un buon ascolto, un buon martedì e una buona giornata. Ciao!